Allora, intanto è la 26esima edizione, siamo con il direttore artistico, il dottor Carosi, che è qui con me, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. È la 26esima edizione, quindi siamo già un bel po' adulti, direi, con Danza Urbana. Sì, in effetti 26 anni, oltre il quarto di secolo. E quest'anno, questa edizione, oltre ai fili conduttori che già ben conosciamo, nella ricerca della danza, così, cosa porterà nella programmazione? Intanto un ritorno a vivere la città senza restrizioni, e quindi coinvolgeremo una decina di luoghi della città, dal centro storico, quindi nelle piazze, negli edifici storici del centro, fino alle aree di rigenerazione urbana e alle zone verdi della città, tracciando delle linee che vanno da sud il parco di Villa Ghigi fino a nord alla piazza Lucio Dalla, e partendo poi dal centro storico, dove ritorneremo con l'ultima creazione, e ci sposteremo anche tutta la zona a ovest con il Dumbo e poi lungo fiume Reno nella zona di via Trumvirato. Ma la caratteristica di questa edizione del festival è senz'altro il focus e l'attenzione ai coreografi giovani ed emergenti, che hanno sviluppato delle creazioni coerenti con la relazione con il paesaggio e lo spazio pubblico, in un'attenzione anche verso l'impatto ambientale che le creazioni possono avere, quindi alla ricerca di creazioni a minimo impatto alla luce del giorno, senza allestimenti tecnici o con allestimenti tecnici minimi. E questo ci permette di osservare la scena giovane ed emergente che si sta confrontando con queste tematiche del cambiamento climatico e del rapporto con lo spazio pubblico e del rapporto con il paesaggio come elementi di una nuova modalità di approcciarsi alla vita, agli spazi della città. E anche al risparmio, visto quello che sentiamo tutti i giorni. Assolutamente, in realtà quando abbiamo costruito la programmazione ancora non era evidente la situazione che si sta creando, però sicuramente queste creazioni sono a pochissimo impatto energetico e quindi vanno nella linea di questi tempi. E mantenendo qualità e ricerca non vanno certo a influire su quello che il pubblico potrà assistere dal 7 all'11. Assolutamente, anzi il festival vuole in qualche modo essere un caleidoscopio dove poter osservare i giovani autori e gli artisti emergenti nelle loro ricerche, ma anche con creazioni che sappiano intercettare la curiosità e l'interesse di tutti, e quindi tanta danza, tante creazioni che sapranno sicuramente coinvolgere, attrarre anche il passante occasionale, e poi la presenza comunque di artisti già riconosciuti, già affermati della scena italiana. Penso a Virgilio Sieni con la nuova produzione, o Fabrizio Favale con un progetto molto particolare, The Rosa Alien Tour, dove due tappe di questo progetto saranno appunto all'interno del Festival Danza Urbana, o ancora con Luna Cenere o Masako Matsushita, che sono due artiste già internazionalmente riconosciute, che propongono due lavori molto particolari. Masako è una creazione partecipativa, per cui è l'invito a vivere un'esperienza a chi vuole partecipare in Piazza San Francesco di esplorazione del paesaggio urbano attraverso una serie di sistemi multimediali e attraverso l'esperienza collettiva di tutti coloro che vorranno partecipare. Invece Luna Cenere, che sarà lo spettacolo di chiusura del festival, propone il tema del corpo come esso stesso paesaggio, e quindi saremo in Palazzo del Curzio, in Sala Tassinari, con questa creazione, con questo studio. Collaborazioni? Collaborazioni sempre tantissime. Il festival opera in una dinamica di rete coinvolgendo tanti soggetti, per cui senz'altro il network Anticorpi XL, con cui attraverso l'azione dedicata alla circuitazione di spettacoli di danza nei paesaggi urbani abbiamo due artisti che sono stati selezionati in questo ambito, che sono appunto Matteo Sedda e il collettivo Vitamina con Never Stop Hop Scrolling Baby, una performance, una durational performance, come una sorta di arredo urbano dove un corpo nello spazio pubblico agisce nel flusso delle persone che transitano per la via. E l'altra creazione è invece Mambusona di Pablo Girolami, che presenteremo al Parco di Villa Chigi, 5 danzatori immersi in questo paesaggio naturale, dove risultano ogni volta trasformarsi in tanti animali, presenze differenti. Abbiamo poi la collaborazione con Mas Danza, il concorso coreografico internazionale delle Isole Canarie, dove presentiamo lavori di due artisti selezionati, vincitori o che hanno ottenuto delle menzioni. In particolare abbiamo Fabian Tomé dalla Spagna e Jill Kerrer da Israele. Abbiamo poi anche una collaborazione con un progetto che si chiama Dancecape, che vedrà all'interno del festival una serie di eventi e di attività legate a incontri, dialoghi, testimonianze intorno al rapporto tra paesaggio e creazione nell'ambito delle arti performative. Abbiamo 4 appuntamenti e questa è una collaborazione con un progetto che vede a sua volta anche due artisti che hanno vinto l'anno passato ognuno una borsa di ricerca coreografica che si intitola Bodyscape, e sono Lorenzo Morandini e Elisa Sperragli, che avremo il piacere di vedere il venerdì 9 settembre presso il Lungo Fiume Reno. Io la ringrazio tantissimo, 26esima edizione Danza Urbana, sempre in crescita, grazie. Grazie a voi, buon festival. Vi aspetto, grazie.